Innanzitutto il movimento francese del 2006, con la sua difficile collocazione che invece le banlieue in questo contesto hanno, ma forse riusciremo a parlare anche di questo. Perché il movimento francese? Perché nel movimento francese per la prima volta la precarietà è stata messa a tema da un movimento collettivo in maniera forte, significativa e dirompente negli ultimi anni. Inoltre perché quel movimento mi sembra, io ero in Francia insieme ad altri amici che sono qui presenti, tra cui Andrea, ero in Francia in quell'anno e ho attraversato quel movimento, e in quel movimento abbiamo intravisto delle pratiche, degli esperimenti sicuramente interessanti per il nostro presente e per il futuro delle lotte. Prima di tutto la pratica del blocco, che di per sé non è una pratica nuova, ma che è stata applicata in contesti e in situazioni nuove o quantomeno innovative. Penso alle facoltà, ma non solo, penso ai trasporti, penso in generale alla dinamica che soprattutto nelle ultime settimane si è innescata di effervescenza continua e di continua produzione di momenti di conflitto. Penso alle manifestazioni spontanee che hanno costretto il tessuto metropolitano, in particolare parigino, cioè quello che ho esperito, ad una semiparalisi attraverso la proclamazione dello stato d'assedio. Quindi un ventaglio di pratiche e di esperimenti di ostacolo alla produzione metropolitana, di fatto di tentativo di incepparla in varie forme, che in Francia è stato messo in pratica. Secondo, ovviamente non in ordine di importanza, esperimento che abbiamo voluto mettere a tema questa sera è quello di City of God, in particolare, in generale il caso milanese, appunto più in generale. Perché? Perché anche lì si è trattato di un esperimento nato in un momento di sciopero, una vertenza molto dura, molto intensa, come è stata quella dei giornalisti del contratto nazionale, dentro una situazione di blocco della produzione, in questo caso di informazione. L'esperimento è stato quello, almeno così noi l'abbiamo letto, di produrre, ma di produrre alla rovescia, per così dire. Ma su questo ci dirà meglio Cristina, e più in generale ci dirà meglio anche Andrea Fumagalli, che ci parlerà di Milano. Il terzo nodo che abbiamo scelto di affrontare, che abbiamo individuato come importante, non è direttamente legato come le altre due a contesti di sciopero, in generale a lotte legate a lavoro-produzione, ma secondo noi ha qualcosa da insegnare, ha qualcosa da indicare, quantomeno, anche a pratiche di sciopero vero e proprio, per così dire, ovvero le mobilitazioni tanto di Rostock e Lingendam in occasione del G8 della scorsa estate, primavera-estate, tanto le lotte di Copenaghen per lo sgombero e il tentativo di rioccupazione della Ungdomshuset. Spero di averlo detto giusto, ma non lo so. Se c'è qualche danese lo prego di sorvolare sulla qualità della mia dizione danese. Perché in quel contesto, insomma, a Copenaghen si è avuto la capacità di sperimentare varie modalità, varie pratiche di conflitto, che sono andate dagli scontri duri ma partecipati, ma importanti nella dinamica complessiva di Rostock del 2, agli esperimenti di resistenza passiva e anche di invenzione di tattiche nuove, come è stata la famosa tattica delle cinque dita, che insomma tanto ha costruito in termini di immaginario collettivo, riuscendo crediamo noi, nel tentativo di bloccare i flussi di persone e di merci nel contesto del G8. Crediamo che possa essere interessante tematizzare quegli elementi e quelle pratiche in un contesto urbano, così come si è fatto a Copenaghen in occasione dell'ultima manifestazione, che tra l'altro ricordo è stata in simultanea con quella bolognese, per la rioccupazione di Crash, del laboratorio Crash. Ecco, crediamo che ragionare su queste pratiche possa essere importante e interessante. Quello che mi preme sottolineare prima di dare la parola a chi interverrà questa sera, chi è qui accanto a me, ma anche nel pubblico, visto che siamo pochi, possiamo permetterci anche un livello più informale di discussione. Interessa tanto tirar fuori le esperienze soggettive di chi ha dato vita o attraversato questa serie di situazioni, beh, più in generale cercando di mettere a tema nella maniera più libera possibile le pratiche che può aver senso oggi mettere in campo, pensandole appunto come pratiche legate a degli obiettivi, a dei contesti specifici e quindi alla loro eventuale efficacia, a partire dagli esempi che abbiamo appunto individuato. Ovviamente insieme a questi ce ne sono altri di cui insomma, chi è qui è invitato a inserire e introdurre nel dibattito.